Ecco, ti ritrovo qui, che strano sorriso che hai. Pensi di sconvolgermi, ma parlano questi occhi tuoi. Provo a difendermi, immobile come non mai, ma tu riesci a sciogliermi, sei bello e purtroppo lo sai. Ed io ti voglio già, ma la fretta consigli non dà. Seduti di fronte a un bar, tra i rumori della città. Ed io ti voglio già, ma valuto il costo che ha. Confusa solo a metà, per sconfiggere l'immobilità. Sorpresa come non mai, che hai fatto per convincermi, sono stati questi occhi che hai. Che bella parentesi che formano le braccia tue, riesci ad accogliermi e infrangi le difese mie. E tu, il corpo tuo, maledetti pensieri che ho. E tu, l'odore tuo, mandi in crisi quello che so. Ed io ti prendo già, che sollievo che questo mi dà. Confusa solo a metà,